con Valerio Carocci del Piccolo Cinema America per presentare il cinema in piazza dal 1° giugno al 1° agosto 2019 a Piazza San Cosimato a Roma, al Parco della Cervelletta a Roma e ad Ostia al Porto Turistico. Valerio, ben trovato. Ben trovati, saluto tutti gli ascoltatori e ciao Federico. Ci racconti? 1° giugno, 1° agosto, come hai detto, tre aree diffuse sulla città di Roma, dal centro alla periferia, continua l'investimento del Piccolo America per riportare il cinema dove il cinema non arriva più e dove forse qualcuno ha dimenticato la possibilità e la bellezza di fruirlo sul grande schermo. E invitiamo tutta la città quindi a venire al porto turistico di Roma, al Casale della Cervelletta a Tor Sapienza, a Piazza San Cosimato, per abbandonare la situazione domestica, smartphone, TV, tablet e piccoli schermi e vivere tutti insieme collettivamente la bellezza del grande schermo. Avete confermato le tre piazze della scorsa edizione? Sì, tre grandi piazze, tre grandi conferme, ma con una novità: ospiti internazionali. Verrà a Roma Mathieu Kassovitz per presentare l'Odio, Debra Winger per Il Cane nel Deserto, Jeremy Irons per la presentazione di Io ballo da sola e Paul Schrader per l'omaggio a Taxi Driver, la sua ultima opera di regia, Fast Record. Come se non bastasse, l'artista francese J.R. farà un omaggio a Agnès Varda con la proiezione e presentazione di Slash Slash. A un anno di distanza, che bilancio facciamo della scorsa edizione? Perché comunque se si replica l'investimento e si cerca di continuare sullo stesso percorso, non si può che sperare in un risultato sempre migliore. È un investimento che fa il Piccolo America, è una possibilità per tutta la città e speriamo che venga raccolta, accolta come lo scorso anno. Anche in controtendenza mi sembra la presenza di tanti, tanti giovani a vedere il cinema in mezzo agli altri. È una controtendenza, ma soprattutto è un processo di creazione di servizio culturale e sociale che altrimenti non abbiamo incontrato nella città e abbiamo dato risposta alle nostre esigenze, ai nostri bisogni e siamo felici di constatare che gli enti ci hanno continuato a sostenere dalla Regione Lazio a tanti altri. Come avete pensato la programmazione nei tre diversi spazi? Ogni arena deve parlare a qualunque tipologia di pubblico, perché non esiste un pubblico solo, c'è il cinema indipendente con le opere dalla Terra dell'Abbastanza, Guarda in Alto, un panno di Dario Albertini a San Cosimato, fino ai grandi maestri, da Bernardo Bertolucci, ma anche più giovani, diciamo come Sorrentino e Cuarón, fino a Tiki Took, Miyazaki, Wes Anderson, Guerre Stellari alla Cervelletta e il cinema più popolare, quindi che dalla Domenica di Cervelletta con Guerre Stellari arriva fino ai Spielberg, Verdone, i Loren, il posto turistico di Roma Ostia. In questo senso ci sono dei filoni con dei giorni specifici? Ogni giorno una rassegna e ogni rassegna può essere seguita settimanalmente, quindi con un appuntamento fisso settimanale. Tutto il programma è su www.cinemainpiazza.it. Per quest'anno l'atteggiamento dell'amministrazione com'è stato? È stato più positivo e sicuramente in questo equilibrio siamo riusciti a dare molto di più alla nostra città. In vista di una sede proprio per voi ci sono novità? No, abbiamo ancora i ricorsi al TAR che bloccano la riapertura del cinema Troisi, speriamo di uscirne di lì al più presto. Per quanto riguarda gli ospiti, sono numerosi? Oltre 40 incontri, da Garrone alla Costellizia, a Borghi e Marinelli. Sabato, fra 2 giorni, apre Piazza San Cosimato con Sulla mia pelle. Si prosegue con Veronetti, Aldo Germano, Mosca Andrea, Margherita Pui, Francesca Marciano, tutto il cinema italiano fino a Ennio Morricone. Un bel manifesto di presentazione di Lorenzo Terranera. Un grande illustratore, un grande amico che si porta dietro tutta Piazza San Cosimato nelle arene della Ostia e della Cervelletta, perché da San Cosimato siamo nati e San Cosimato è il motore di tutta questa iniziativa e da qua vi parliamo. Il gruppo si sta allargando? Sempre di più, quest'anno siamo pieni di volontari, avremo bisogno di altri volontari per gestire i volontari e di questo non possiamo che esserne orgogliosi. Ok, rispetto invece ai fondi, come funziona il finanziamento? Siamo felici e soddisfatti di poter dire che da più o meno 5 anni l'iniziativa si sostiene egregiamente e riesce a produrre anche lavoro per oltre 40 ragazzi. Bene, i riferimenti ce li hai dati. Valerio, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede in piazza. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. A Piazza San Cosimato, www.cinemainpiazza.it. Ciao ciao. Ciao, grazie.